Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è dedicata alle aste, a quello che sta andando, diciamo così, all'incanto tra dei repertori, delle reliquie preziose per la musica e anche per la storia della musica. E abbiamo qua con noi in studio questa sera Laura Nicora, ricordo dalla Scuola di Filologia Musicale di Cremona, ma anche professoressa, è stata docente alla Bicocca di Milano per un corso appunto al master. Ricordo poi anche i libri che lei ha scritto, ma non posso ricordarli tutti. Comunque ha curato, tra l'altro, un libro delizioso di Padre Martini sulla storia della musica, dalla creazione al diluvio universale, quel piccolo periodo lì, insomma, e varie altre cose. Poi, ovviamente, i lavori che fa, le perizie per cui è nota, eccetera, eccetera. Buonasera, Laura. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, ma quest'asta di Sotheby's sta facendo parlare un po' tutti, vanno all'asta capelli di no, ce lo racconti lei, perché io sono un po' anche titubante nel raccontare cosa va all'asta. Allora, anzitutto, in questo periodo si è aperta la stagione delle aste, no? Aste di primavera e aste di autunno, e siamo nelle aste di primavera, e in Italia è già stata l'asta di Bolaffi, è stata alcuni giorni fa, e sono andati all'asta testi di cucina. Però all'interno di quest'asta di testi di cucina, che oggi sono molto di moda con Expo, è anche passato un lotto che in realtà ha un collegamento con la musica, perché si tratta di un menù in onore di Puccini, o meglio in onore dei 30 anni della Manon Lescaut di Puccini, per cui siamo nel 1923, l'anno prima della morte del compositore. E questo menù aveva anche una serie di firme, tra cui quelle del maestro, quelle di Toscanini e di una serie di altre persone del giro di Puccini, e la base era di 300 euro ed è stato venduto a 700 euro. Effettivamente è una bella curiosità. Bella curiosità, insomma. E nei prossimi giorni, il 27 di maggio, invece a Firenze ci sarà l'asta Gonnelli, dove ci sarà una sezione anche dedicata alla musica. Ci saranno tanti manoscritti della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento, sia di musica strumentale che di musica vocale con accompagnamento strumentale, sia di autori famosi come ad esempio Rossini, ma anche di alcuni autori che oggi non sono quasi più ricordati, ma all'epoca avevano avuto un certo peso, per cui questo potrebbe essere anche un momento per ristudiarli, riscoprirli e far ricantare queste carte musicali. E poi l'asta di Sotheby's. L'asta di Sotheby's il prossimo, anche questo 28 maggio, è l'asta di Sotheby's a Londra, nella celebre sede di New Bond Street, questa zona poi così famosa, così celebre di Londra. E l'asta sarà il 28, sarà il pomeriggio, alla mattina passeranno libri antichi e autografi, mentre invece al pomeriggio c'è proprio questa sezione esclusivamente dedicata alla musica. E sono circa 150 lotti, e suddivisi un po' in sezioni, perché abbiamo sia autografi, lettere autografe, e ce n'è per tutti i gusti, perché abbiamo da Dvorak, Mahler, Elgar, Mendelssohn, Massenet, Verdi, Grieg, Wagner, Brahms, Busoni, Berlioz, per cui effettivamente le lettere sono tante, con argomenti e contenuti differenti e anche con stime differenti. Poi abbiamo fotografie autografate, abbiamo prime edizioni di autori piuttosto celebri, manoscritti musicali autografi, che sono tutti quei manoscritti che propongono poi al lettore la versione definitiva di una composizione, e sono quelli che il compositore scriveva poi per far pubblicare, per cui sono anche, per gli addetti ai lavori, almeno abbastanza chiari da leggere, non abbiamo correzioni, non abbiamo cancellature. A differenza invece degli schizzi e degli abbozzi che sono presenti in quest'asta, gli schizzi e gli abbozzi sono un'idea che il compositore butta giù sulla carta musicale, ma butta giù per se stesso, per cui spesso sono pieni di pasticci, sono difficilissimi da leggere se non da un lettore attento, uno studioso competente che conosce bene anche quel tipo di grafia del compositore. E poi ci sono anche alcuni manoscritti che sono manoscritti di copisti, per cui non sono autografi, che però hanno contenuti interessanti. E ad esempio nell'asta di Sotheby's c'è un manoscritto di Handel, di un'opera di Handel che è Lacis Galatea, che è scritta nello stesso periodo di quando è stata rappresentata la prima volta quest'opera, ed è una stima di un certo rilievo, perché va all'intorno tra i 25 e i 35 mila euro, per cui insomma anche un manoscritto non autografo può avere un grande valore. Io la fermo perché così adesso dividiamo un po' anche tutto questo tesoro, insomma io non posso andare all'asta perché non ho disponibilità finanziarie per poter così competere con i ricconi che andranno, però chiaramente ho l'acquolina in bocca. C'è ad esempio un Rachmaninoff che abbiamo anche preparato per un piccolo ascolto. Di cosa si tratta? Certo, allora abbiamo detto, insomma, in quest'asta ce n'è un po' per tutte le tasche e per tutti gli interessi, però ci sono le valutazioni più alte sono relative a due autori russi e uno è proprio Rachmaninoff. Si tratta della versione definitiva autografa delle danze sinfoniche per due pianoforti. Sono 112 pagine, per cui insomma molte carte. È un'opera scritta negli Stati Uniti, scritta nel 1942, e la provenienza arriva da una compagna, ex compagna di Rachmaninoff, e questo pezzo ha una base che una stima, scusate, che varia tra i 270 e i 400 mila euro, per cui insomma un appartamentino sì. mentre invece il lotto che ha la base più, la stima più alta, è un Tchaikovsky, e in questo caso non è una versione definitiva, ma sono degli abbozzi, per cui quelle carte più paciugate, più pasticciate, sì, sì. Sono solo 32 pagine, a differenza delle 112 di Rachmaninoff, e si tratta degli abbozzi della suite per orchestra, l'opera 53 numero 2, e sono abbozzi relativi soltanto a alcune parti della suite, non a tutta la suite, e qui la stima si aggira intorno ai 350-400 mila euro. Teniamo conto che i manoscritti autografi di Tchaikovsky in un'asta sono molto rari, per cui anche per questo effettivamente il valore si è alzato. Sì. Laura Nicora, allora abbiamo detto che queste aste dei russi sono le più ricche, insomma per comprare qualcosa di Rachmaninoff abbiamo visto che si può oscillare tra i 270 e i 400 mila euro, ma Tchaikovsky non è da meno. No, anzi. Assolutamente non è da meno, anzi, certo. Però in quest'asta ci sono anche cose più abbordabili, ad esempio per rimanere in casa nostra in Italia, una lettera di Donizetti che oscilla in circa tra i 2000 e i 2700 euro, è una lettera che è relativa a una sua opera, Le Martyr, opera che tra l'altro ha una storia molto travagliata, perché in un primo momento il titolo di quest'opera è il Poliuto, e opera che doveva essere rappresentata al San Carlo di Napoli, però a un certo momento, poco prima di metterla in scena, la censura blocca tutto, perché il soggetto è un soggetto che è un po' difficile da mettere su un palcoscenico, perché è la vita di un santo, per cui la censura blocca tutto, l'opera è già finita e Donizetti si imbufalisce, va via da Napoli per non voler più tornare, e tra l'altro il tenore si suicida, il tenore che doveva sostenere la parte di Poliuto, per cui lui porta l'opera a Parigi e in questa lettera scrive al direttore dell'opera di Parigi dicendo proprio di fare attenzione, di seguire i cantanti in modo tale che siano puntuali, che partecipino alle prove, perché lui ci tiene moltissimo a quest'opera. Non era riuscita a Napoli e spera che tutto riesca a funzionare a Parigi. Però nell'asta di Sotheby's ci sono anche delle edizioni, ci sono alcune prime edizioni di vari autori, tra cui edizioni di Mozart. Abbiamo alcune prime edizioni di sonate di Mozart, una prima edizione di un concerto per pianoforte orchestra e poi una famosissima edizione di 6 quartetti. Ora, Mozart scrive il suo primo quartetto, che era un ragazzino, aveva 14 anni, si trovava a Lodi e lo scrive in una locanda, siamo nel 1770, durante il suo primo viaggio in Italia. Però in quel tempo scrivere quartetti d'archi non era poi tutto sommato così usuale, nel senso che fino ad allora la musica strumentale, anche la musica per quartetto, comprendeva sempre uno strumento a tastiera che doveva eseguire il famoso basso continuo, questo accompagnamento. Tenete conto che la musica da camera era la musica per essere eseguita in una camera chiusa, ma nel momento in cui la società comincia ad avere gusti diversi e comincia ad aver piacere a suonare musica all'aperto, soprattutto nelle sere d'estate, quando c'è caldo, perché stare in una stanza chiusa, si esce fuori, si va nei cortili, si va nei giardini, si va anche in gondola. E portare un clavicembalo diventa una cosa abbastanza scomoda, diventa pesante. Per cui che si fa? Si pensa di sostituire il clavicembalo con un altro strumento e nasce così il quartetto d'archi. Proprio per questo motivo nasce il quartetto d'archi, dove il violino guida, il violoncello sostiene e anche la viola seconda e il violino secondo e la viola hanno qualcosa da dire. Per cui in questo modo nasce molto brevemente, insomma, il quartetto d'archi. E l'edizione dei quartetti che è proposta in questa asta di Sotheby's è molto interessante, perché sono quartetti che Mozart scrive da quando aveva 25 anni fino ai 30 e li fa pubblicare a Vienna ad Artaria nel 1785, e in questa edizione c'è una famosissima lettera che lui scrive a Haydn e lo chiama proprio caro amico Haydn. È una lettera in italiano ed è pubblicata nell'edizione, e a Haydn scrive: ti dedico questi miei sei figli, che sono questi sei quartetti, che sono il frutto di una lunga e laboriosa fatica, accoglili benignamente, sì, per loro un padre, una guida e un amico. E da questo momento io ti cedo i miei diritti sopra di essi e ti supplico però di guardare con indulgenza i miei difetti. Per cui questo è una ulteriore testimonianza della grande stima che Mozart aveva nei confronti di Haydn. E la base di queste edizioni, che sono le parti strumentali, le quattro parti del quartetto, si aggira intorno ai 20.000-27.000 euro. Che non è poco, ma comunque è una cifra che merita quest'opera di Mozart. E invece ho notato che ci sono anche i 24 capricci di Paganini. C'è anche, sì, la prima edizione dei 24 capricci per Paganini, che è un'opera molto famosa per violino solo. La prima edizione è stata stampata a Milano da Ricordi nel 1820 e come tutti sanno, insomma, sono composizioni di carattere estremamente virtuosistico, con una grande varietà di tecniche violinistiche, e tra l'altro proprio dai temi dei capricci successivamente tanti autori hanno preso spunto per delle loro composizioni, come Schumann, Brahms, Rachmaninoff piuttosto che Liszt, e anche loro hanno creato composizioni dal punto di vista virtuosistico molto molto alte. Questi capricci, che sono diventati poi un cavallo di battaglia, insomma, per i grandi violinisti, erano stati accolti molto con un parere molto favorevole dal pubblico dell'epoca. Tra l'altro Paganini era questo personaggio anche quasi diabolico, insomma, e suonando questi pezzi con questo virtuosismo straordinario riusciva a coinvolgere, a affascinare il pubblico maschile e femminile dell'epoca, insomma. Anche se era brutto, insomma. Era molto affascinante. Però era molto affascinante proprio per questo aspetto demoniaco. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dei microfoni di Radio 24. Questa sera stiamo parlando di una serie di lotti che vanno all'asta a Londra da Sotheby's il 28 maggio. Lo stiamo facendo con Laura Nicora, che è un'esperta di questo settore, fa perizie e soprattutto è anche una docente e anche una persona che ha curato pubblicazioni. Abbiamo fatto un po' l'elenco dei suoi meriti prima. In ogni caso, Laura Nicora, mi sa che adesso arriviamo a quelle cose che io non ho voluto dire, i capelli di Mozart, di Beethoven. Cos'è successo? Cosa c'è in quest'asta? Allora, in quest'asta ci sono, come ogni tanto accade, alcune curiosità. Si possono trovare nei cataloghi di asta, si possono trovare nei cataloghi di librai antiquari italiani e stranieri, certe volte anche nei mercatini, ma bisogna stare attenti sempre alla provenienza in quel caso. E mentre invece in questo caso all'asta di Sotheby's abbiamo anche l'indicazione molto, molto chiara della provenienza. E una di queste curiosità riguarda Chopin. Chopin, che è il compositore romantico per eccellenza, ha avuto una vita romantica, romantica perché è stata breve, perché la sua vita è durata circa 40 anni, e poi piena di sofferenze, anche di malattie, no? Tipica del periodo romantico. È stata una vita molto originale, è stato un compositore nazionale, nel senso che nelle sue opere c'è questa vena che arriva dalla sua terra. Lui nasce in Polonia, anche se il suo cognome è originario della Francia, però nelle sue opere si sente questa vena fortemente polacca. Scrive quasi esclusivamente per pianoforte o per pianoforte orchestra, ha questa storia molto travagliata con questa donna che si faceva chiamare George Sand, è una donna molto chiacchierata. E poi, come fanno i compositori romantici, non scrive per qualcuno ma scrive per se stesso. Questa è la grande differenza tra i compositori del Rinascimento, del periodo barocco e del periodo classico, no? Se pensiamo, non so, a Bach, lui scrive sempre per qualcuno, lui sempre ha un signore per cui scrivere, o scrive a Lipsia o scrive in qualche altra città tedesca, e scrive sempre perché qualcuno gli ordina di comporre qualcosa. E in questo caso invece Chopin si mantiene con il suo lavoro, che è dare lezioni, fare concerti, piuttosto che pubblicare le sue composizioni. Ecco, cosa c'è all'asta di Chopin? All'asta di Chopin c'è un documento che è stampato con alcune note manoscritte e due firme di Chopin, dove Chopin dà a questo editore londinese, Wessel, da pubblicare alcune sue composizioni, tra cui i Notturni opera 15 e Quattro Mazurche opera 17, con la mazurca che con Chopin proprio si innalza una vera e propria forma d'arte. E Chopin da questa cessione riceve 20 sterline e lascia a Wessel a Londra appunto la possibilità e i diritti di stampare le sue opere a Londra e in Gran Bretagna. E questa cosa è una curiosità, è un documento molto importante, perché è il primo documento legato a Chopin e ai diritti d'autore che passa attraverso un'asta. E la base della stima, scusate, di questo documento si aggira intorno ai 14.000-20.000 euro. Non una cifra di poco, insomma. Non una cifra di poco, ecco, assolutamente. Ma poi ho no. visto appunto che ci sono anche cose riguardanti Beethoven e Mozart. Possiamo un po' chiudere questo? Certo, le due cose legate a Beethoven e Mozart sono queste. Per quanto riguarda Beethoven, è un invito stampato ai funerali di Beethoven. I funerali di Beethoven si svolgono a Vienna il 29 marzo del 1827, e Beethoven era molto famoso, era un personaggio molto noto, molto celebre, per cui a questo funerale affluiscono tantissime persone, oltre 20.000 persone. Evidentemente c'era stato anche bisogno, forse qualcuno ha pensato di fare un invito, e in questo lotto si vende un invito per il funerale e si vende anche una piccola ciocca di capelli bianchi, però, per cui evidentemente di Beethoven, non più ragazzino. Non più ragazzino. Ecco, la provenienza di questa ciocca di capelli è una famiglia di Vienna o inglese? La provenienza a quanto pare è una famiglia inglese, e la stima è si aggira intorno ai 3.000-4.000 euro. Solo mentre per la ciocca di capelli? E l'invito al funerale. Anche tutte e due, anche l'invito al funerale. Diciamo un po' una battuta funebre questa. Una battuta funebre potrebbe essere una battuta d'asta funebre, però sì, molto curiosa. E altrettanto però di tutt'altra stima sono invece i capelli di Mozart, perché in quest'asta c'è anche un lotto che propone i capelli di Mozart insieme a un manoscritto che indica la provenienza di questi capelli. A quanto pare in questo manoscritto ottocentesco si legge che questi capelli sono stati dati da Costanze Mozart, la moglie di Mozart, a una signora la quale aveva un figlio che poi è diventato direttore d'orchestra. Quest'uomo ha tenuto per un po' di tempo i capelli con sé e poi l'ha donati a un signore a Londra, il quale poi ha messo insieme questo bigliettino insieme a questa ciocca di capelli. E in questo caso però la stima per la ciocca di capelli è appunto molto diversa da quella per Beethoven, ma si aggira intorno ai 14.000-17.000 euro. Beh, direi che Mozart, i capelli di Mozart battono tutto, battono anche la partecipazione ai funerali di Beethoven. Cioè, in passato avevamo parlato anche dei capelli di Verdi, avevamo trovato i capelli di Verdi, ma per cifre che si aggirano insomma intorno a quelli di Beethoven. Ecco, mentre vedete, quelli di Mozart sono qualcosa di veramente straordinario, rarissimi. Oltre le firme di Chopin, oltre i capelli di Mozart, oltre le partecipazioni funerarie di Beethoven, chiamiamole così, cos'altro c'è ancora da notare in questa parte? Allora, l'asta comprende anche una serie di fotografie autografate di autori e di musicisti molto famosi. E, tra l'altro, se si vedono le stime, ci accorgiamo che si passa dai 2.000 ai 12-15.000 euro. Ci si chiede come mai c'è questa forchetta così ampia, come si fa a valutare una fotografia? E la fotografia, il valore di una fotografia dipende da tante cose, anzitutto da chi è ritratto nella fotografia, certo. Dallo stato di conservazione della fotografia, chi è il fotografo che fa questa fotografia, che ha scattato questa fotografia, dalle dimensioni della fotografia e poi anche dal fatto che ci sia una firma, una dedica e eventualmente la dedica quanto è lunga e a chi è inviata, per cui tutte queste cose effettivamente possono cambiare e anche di molto il valore di una fotografia. A me capita spesso, ma non soltanto parlando di fotografie, ma in generale, che ci siano persone che mi chiedono quanto vale questo documento che ho, questo autografo che ho, questa fotografia che ho, e mi inviano una scansione. La scansione è qualcosa che mi permette di avere un'idea di quello che è in possesso della persona che mi sta inviando questa cosa, ma non mi permette di fare una valutazione, perché non sarebbe corretto. Io devo vedere il documento in originale, questo vale per le fotografie, vale per tutti gli altri documenti, perché effettivamente anche nel caso della fotografia io posso avere una fotografia con una firma, però in realtà è una riproduzione, per cui invece di valere 5.000 euro vale 50 euro, vale 30 euro, vale tutt'altro. Io non posso dire al proprietario una cifra e invece poi è un'altra. L'ultima fiera del libro antico fatta a Milano il marzo scorso, c'era un libraio che aveva una bellissima fotografia di Puccini e mi chiamano e dico: Laura, guarda, vieni a vedere, c'è questa foto di Puccini con la firma. Vado a vedere e era una fotografia di Puccini con la firma, certamente, ma giustamente il libraio aveva indicato che la firma era stampata, non era stata messa da Puccini. Infatti il libraio in maniera molto corretta l'aveva indicato e aveva anche indicato una cifra adatta al fatto che la firma non fosse autografa ma fosse stampata. Ecco, questo lo dico a tutti coloro che credono di poter avere una valutazione via email. Ecco, questo non è possibile se si vuole essere corretti e professionali. Bisogna vedere proprio, certo, bisogna l'oggetto, sempre vedere, controllare la carta, controllare la filigrana o comunque controllare tutta una serie di cose per poter dire che il documento che sia in mano, autografo o manoscritto, sia originale e non una copia. Questa è la, diciamo così, la direttiva più importante. Ecco, tra queste fotografie possiamo segnalarne una magari in particolare? Ma sì, allora, tra le fotografie ce ne sono alcune di Puccini e soprattutto una di Puccini che ha una stima veramente piuttosto alta, ma c'è un motivo. Anzitutto è una fotografia di Puccini che lui dedica al Conservatorio di Montevideo. Puccini è stato anche nel 1905 in Sud America, un viaggio incredibile per l'epoca, va a Buenos Aires e poi a Montevideo, per cui dedica questa fotografia a questo conservatorio e tra l'altro è una delle fotografie di Puccini più grandi che si conoscano, ha le dimensioni che sono 60x50 circa ed è una fotografia effettivamente molto grande, per cui una fotografia in buono stato di Puccini, per cui un nome molto famoso, grandi dimensioni e una dedica autografa portano la stima all'incirca 10-12 mila euro. 10-12 mila euro, sì, per questa fotografia, sì, che viene da Montevideo. Sì. Va bene, ecco, questo per dare un po', diciamo, tutta una serie di indicazioni. Poi abbiamo adesso, ecco, c'è qualcos'altro da aggiungere, Laura Nicora, perché poi abbiamo un collegamento con la Scala e qui la sorpresa. E a proposito dell'asta di Sotheby's e della Scala, c'è una fotografia, rimanendo sempre nell'ambito delle fotografie, dedicata da Giuseppe Verdi a Francesco Tamagno, il grande tenore a cui Verdi cuce addosso il ruolo di Otello. Opera appunto rappresentata alla Scala nel 1887, un grandissimo successo, il libretto di Arrigo Boito, librettista e compositore, e il grande ritorno di Verdi alla Scala. E tra l'altro quella sera, che era il 5 febbraio 1887, fu tale il successo che quando Verdi ritornò verso il Grand Hotel de Milan, dove soggiornava, per cui per chi conosce Milano, insomma, sulla stessa via della Scala, ci fu una grande numero di persone che si riversarono in strada e Tamagno dalla stanza del Grand Hotel di Milan cantò un brano dell'Otello che è L'Esultate, e questa fotografia è dedicata proprio la sera della prima dell'Otello a Tamagno. Quanto vale? La stima si aggira intorno agli 11.000-14.000 euro. Beh, non poco, però direi che li merita data l'eccezionalità della serata. Certo. Ecco, collegamento con la Scala. Abbiamo Paolo Besana, il dottor Paolo Besana, che è capo ufficio stampa della Scala, perché questa settimana la Scala presenta la prossima stagione, quella che partirà il 7 dicembre di quest'anno e appunto andrà l'anno venturo, il dopo Expo. Buonasera Paolo. Buonasera. Ovviamente non possiamo chiederle niente, però quando verrà presentata la prossima stagione? Allora, la presentazione noi la facciamo il 27. E quindi da quel giorno la nuova stagione sarà rivelata, ma qualcosa in realtà si sa già, nel si senso sa già. Che qualcosa è come sempre già trapelato, e qualcosa abbiamo anche già detto, come per esempio che apriremo con la Giovanna d'Arco di Verdi, un titolo che ha visto la luce alla Scala ma che manca alla Scala dal 1865, e questa è anche un po' una linea che si intende seguire, riportando alla Scala degli spettacoli che hanno visto qui la luce per la prima volta, che sono stati eseguiti in prima assoluta e che magari mancano da molto tempo, da molti anni. Benissimo, questo è un po' anche quello che ci ha confidato Pereira proprio nell'intervista che ci ha fatto. Questa presentazione sarà fatta da Pereira, penso da Chailly e dal sindaco di Milano, nonché nostro presidente Giuliano Pisapia. Ecco, come ogni anno. Qualcos'altro che possiamo aggiungere alla Giovanna d'Arco, che non verrà bruciata di nuovo, insomma, si simulerà adesso, non so chi sarà. Simuleremo. Chi sarà il regista? Sicuramente noi, a proposito di prime assolute, possiamo confermare che ci sarà la prima assoluta di Fin de partie di Courtauld, che è un'opera molto attesa perché è il primo cimento teatrale di uno dei maggiori compositori contemporanei, e vedrà la luce per la prima volta alla Scala. Per il resto possiamo dire che si produrrà molto e che ci saranno 15 titoli d'opera, e che di questi 15, 8 saranno italiani, 4 saranno di Verdi. Sicuramente possiamo anche dire che Riccardo Chailly proseguirà con il suo ciclo pucciniano. Credo che ormai tutti sappiano che il titolo dell'anno prossimo è La fanciulla dell'West, quindi lo possiamo dire tranquillamente. È una cosa interessante che sarà eseguita nella versione originale e non nella versione parzialmente riorchestrata da Toscanini per il Metropolitan. Ecco, il podio del 7 dicembre con Giovanna d'Arco di Verdi, chi vedrà? Come? È il maestro Chailly. Ormai ha preso possesso della Scala, possiamo dirlo, insomma. Ma forse siamo noi che abbiamo preso possesso di lui, adesso stiamo cercando, adesso anche nei prossimi giorni ci sono tanti impegni, ci sarà il concerto in piazza con la Filarmonica, mi sembra che il maestro si stia spendendo con molto entusiasmo in questa nuova fase della sua carriera e della vita della Scala. Beh, un grande direttore d'orchestra noto in tutto il mondo che torna a casa in fondo, no? Perché Chailly è milanese, quindi... Sì, torna a casa, una casa che non ha mai veramente lasciato, certo. Ma che in cui adesso comincia a investire in maniera sistematica. Noi avremo appunto questo ciclo Puccini che proseguirà nel corso degli anni, con l'ambizione di creare una edizione Puccini per il nuovo millennio, ma ci saranno comunque anche impegni del maestro in campo verdiano e anche rossiniano prossimamente. oltre a un grande impegno con la filarmonica, perché l'impegno con la filarmonica è l'altra metà del lavoro del direttore principale, presto direttore musicale della Scala. Certo. Grazie a Paolo Besana, ridarei la parola. Grazie a voi. Darei la parola a Laura Nicora. Purtroppo il tempo è tiranno e non ce n'è rimasto più. Ringrazio Laura Nicora con quest'asta di Sotheby's del 28 maggio che ci ha ovviamente illustrato, e ringrazio poi anche il capo ufficio stampa della Scala che ci ha così rivelato qualche piccola diciamo così novità. Allora, come al solito, i saluti del conduttore Armando Torno, vi dà appuntamento come sempre domenica prossima alle 21, quindi i miei cordiali saluti, poi ci sono quelli di Laura Nicora. Buonasera a tutte, grazie. E poi sentiamo quelli della Scala. Grazie, buonasera. Bene, anche dalla Scala abbiamo i saluti, e allora a risentirci settimana prossima.